246esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canti di montagna. Malgrado le limitazioni imposte all'uso dei mezzi meccanizzati di trasporto per le note restrizioni determinate dalla crisi del petrolio, le recenti tardive nevicate hanno fatto ripopolare di sciatori provetti o principianti i campi di neve di cui è così ricca la nostra regione. Ma le belle giornate primaverili hanno anche indotto i tanti appassionati della montagna ad anticipare le escursioni sui magnifici contrafforti delle nostre Alpi. Ecco allora, quando ci si trova riuniti in un rifugio, in una baita o in una delle prime osterie della valle sulla strada del ritorno, che il canto sgorga facile e scorrevole, dimentichi delle tante preoccupazioni che la vita non risparmia. Dimentichiamo anche noi, per qualche momento, i nostri fastidi e i nostri affanni ed ascoltiamo, amici emigrati, alcuni canti a voi certamente noti. Normalmente il primo ad iniziare la serie, sia per intonare le voci ed anche perché è il più facile per la sua diffusa conoscenza, è quel mazzolin di fiori. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna. E quanto me che dolce bagno che lo voglio lei. Notissimo ed immediata espressione è anche il canto della partenza, al chiante il dial. Thank you. Più impegnativo invece è il canto della Montanara, presente nel repertorio di tutti i complessi corali, anche di quelli che così a caso si improvvisano. Ma attenti, attenti, che passa proprio ora la fanciulla che fa innamorare tutti, la villanella. Che passa la villanella, forse che bella la fa innamorare. E come balli bene, bella bimba, bella bimba, bella bimba, e come balli bene, bella bimba, bella bimba, balli bene. Guarda che passa la villanella, forse che bella la fa innamorare. E come balli bene, bella bimba, bella bimba, bella bimba, e come balli bene, bella bimba, bella bimba, balli bene. Di origine trentina, come il precedente, eppure questo canto che ascolterete ora, Val Sugana. Oh, troppi vera. Credula, credula, se fusa troppi, troppi vera. Biondo mora costa sera, l'altro ver la troverà. Biondo mora costa sera, l'altro ver la mime troverà. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.